Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dal settore dell'autotrasporto e più in generale dalla logistica arrivano dati incoraggianti che indicano segnali di ripresa a partire dall'impennata delle immatricolazioni di mezzi commerciali e industriali. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa e ci torneremo anche oggi. Ma la strada da percorrere per uscire dal tunnel è ancora molto lunga, quanto il terreno da recuperare dopo gli anni difficilissimi di una crisi che continua a manifestare i suoi effetti. Secondo un'elaborazione dei dati ACI da parte del centro ricerche Continental, tra il 2010 e il 2015 il numero di mezzi pesanti adibiti al trasporto merci è diminuito di 40.000 unità. Giusto per la cronaca, la stessa tendenza ha riguardato anche il numero degli autobus. E sempre ragionando per numeri, ma in questo ambito la crisi entra relativamente, negli ultimi 10 anni in Italia hanno chiuso 1.239 distributori di carburanti, cioè il 5,6% del totale. I numeri derivano da un'elaborazione dei dati dell'Unione Petrolifera da parte dell'osservatorio Autopromotec. La riduzione del numero delle stazioni di rifornimento è sostanzialmente la conseguenza del piano di razionalizzazione della rete avviato ormai da tempo. Comunque restiamo il paese europeo con il più alto numero di punti di distribuzione di carburante. Lasciamo i numeri con i quali abbiamo aperto questa puntata e torniamo ad occuparci delle istanze del mondo dell'autotrasporto su questioni centrali per il comparto. Nei giorni scorsi, con una lettera al sottosegretario al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con delega all'autotrasporto Simona Vicari, UNATRAS, l'Unione delle Associazioni di Categoria, ha sollecitato il governo a sciogliere una serie di nodi irrisolti, dalla decontribuzione per gli autisti impegnati nei trasporti internazionali dopo lo stop di Bruxelles, al ripristino dei costi minimi, dai tempi di pagamento certi, al calendario dei divieti 2017 per i mezzi pesanti nei festivi, prefestivi e indeterminati giorni infrasettimanali. Su questo punto da tempo le associazioni chiedono maggiore flessibilità in linea con i reali flussi di traffico e le esigenze delle varie filiere coinvolte, dal commercio all'industria. La prima bozza del calendario 2017 presentata nei giorni scorsi dal Ministero conferma l'impostazione degli anni scorsi, anzi, stando allo schema, i giorni di divieto aumentano. UNATRAS e ANITA sollecitano modifiche prima della pubblicazione del calendario. Sentiamo Thomas Baumgartner, presidente di ANITA. Abbiamo date le nostre contrarietà, soprattutto a 2 giovedì pomeriggio, del 1° giugno e poi del 7 dicembre. Noi speriamo comunque tuttora ancora che ci sia il ripensamento. Sul fronte del mercato non è cambiato niente. Noi abbiamo soprattutto già da tempo proponiamo di fare, invece di fare questi divieti di circolazione completa, di fare i divieti di sorpasso sugli autostrade e strade di veloce percorrenza, cioè di 4 corsie, di fare divieto di sorpasso dove ci siano solo 2 corsie, perché noi riteniamo che soprattutto è per la sicurezza della circolazione, per il disturbo per le autovetture, sia questa la misura più idonea per evitare rischi di incidenti, e così si potrebbero tranquillamente combaciare le esigenze. Trasportare prodotti alimentari freschi o a temperatura controllata, oppure medicinali, significa operare nel rispetto di precise condizioni a tutela della merce e quindi di chi la riceve e la consuma. Un errore, un ritardo, un'alterazione delle modalità seguite durante il viaggio possono determinare conseguenze gravi sotto vari profili. Trattandosi appunto di alimentari e di farmaci, è eminentemente una questione di sicurezza. Ma nonostante la delicatezza di questo tipo di trasporti, in Italia non esiste un casellario con i nomi delle aziende che effettuano questo genere di servizi, e anche sul piano dei controlli non c'è un organismo specializzato nelle verifiche. Pure in termini meramente statistici manca una fotografia aggiornata e nitida del settore, attraverso la quale inquadrare problematicità e al tempo stesso opportunità. Per rispondere a queste esigenze e diventare così un punto di riferimento è nato OITA, acronimo di Osservatorio Interdisciplinare Trasporti Alimenti. La presidente è Clara Ricozzi, l'abbiamo intervistata. Osservatorio Interdisciplinare Trasporto Alimenti, cos'è? È una struttura consultiva che vuole aiutare le istituzioni, prima di tutto, per questo si chiama interdisciplinare, a coordinarsi tra di loro. Io parlo anche da ex direttore del Ministero dei Trasporti, ma ci sono coinvolti, come possiamo immaginare, la salute, gli interni, lo sviluppo economico e quant'altro, perché sarebbe lungo l'elenco, a soprattutto mettersi insieme per controllare meglio cosa succede agli alimenti e ai farmaci dal momento in cui partono al momento in cui arrivano nelle nostre case. Quindi vogliamo che il consumatore sia sicuro di quello che ha a tavola o del farmaco che consuma, perché come sappiamo si possono verificare delle rotture di carico nel corso della distribuzione, nel corso del trasporto, soprattutto nei centri di distribuzione, che potrebbero portare a alterazioni e quindi a perdita delle capacità organolettiche di questi prodotti. Questo è l'obiettivo principale dell'OITA. Abbiamo messo in piedi un comitato tecnico-scientifico del quale fanno parte anche l'architetto Vitelli, responsabile della motorizzazione, il dottor Finocchi, direttore del trasporto stradale e dell'intermodalità, e che sta cominciando con tavoli di lavoro ad affrontare questi temi. Sicurezza stradale, un tema che seguiamo con particolare attenzione in questa trasmissione. Come già detto, dopo 13 anni consecutivi contrassegnati da una diminuzione costante delle vittime della strada, i dati definitivi del 2015 hanno interrotto questo trend incoraggiante. L'anno scorso si è infatti registrato un aumento dei morti pari all'1,4%. Questo appunto è il dato nazionale, ma ci sono regioni dove invece la tendenza positiva è stata confermata. Tra queste la Toscana, dove nel 2015 il numero delle vittime è sceso ancora, e così quello dei feriti e degli incidenti in generale. Al nostro microfono l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli. Questo ci rafforza nelle azioni che stiamo facendo, che riguardano il miglioramento delle infrastrutture. Negli ultimi 10 anni abbiamo cofinanziato oltre 300 interventi di messa in sicurezza stradale con oltre 100 milioni di euro per cofinanziare lavori fatti da comuni e dalle province, che hanno consistito in lavori di realizzazione marciapiedi, rotatorie, di sopra sottopassi, di segnaletica, quindi lavori a volte anche piccoli dal punto di vista della quantità di risorse investite, ma molto rilevanti. Lungo le strade della Toscana, gli interventi infrastrutturali, come abbiamo sentito talvolta si tratta di opere anche poco costose, traggono spunto dagli elementi forniti dal SIRS, il Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale. Sentiamo ancora l'assessore Ceccarelli. Questi dati a noi ci servono non solo dal punto di vista statistico, ma ci servono soprattutto per poter poi mirare i nostri interventi. L'altro aspetto importante è quello relativo agli stili di vita e alla cultura del rispetto delle regole, perché l'infrastruttura può essere anche adeguata, ma se chi si mette alla guida di un mezzo non è a posto per quanto riguarda la sobrietà, per quanto riguarda la non assunzione di sostanze stupefacenti, a volte anche di medicinali, è chiaro che l'infrastruttura da sola non basta. Oppure se guidando si superano i limiti di velocità, oppure magari si parla al telefono e ci si distrae. Infatti, dal rilevamento che è stato fatto, viene fuori che la maggioranza degli incidenti sono causati appunto dal superamento dei limiti di velocità oppure dalla distrazione. In apertura parlavamo di dati in chiaroscuro provenienti dal settore dell'autotrasporto e della logistica in generale. Sicuramente tra i numeri più incoraggianti spiccano quelli inseriti nei bollettini periodici relativi alle immatricolazioni dei veicoli. Tra le categorie che hanno decisamente virato sul positivo dopo la tempesta della crisi c'è quella dei rimorchi e dei semirimorchi. Il punto con Sandro Mantella di Unrae. Cresce del 35% quest'anno. Abbiamo una previsione di chiusura grazie anche a delle agevolazioni di superammortamento e di sabatini, che ha aiutato a svecchiare un po' un parco circolante molto molto obsoleto. Ecco, le prospettive? Le prospettive, con quelle che sono state le conferme che abbiamo avuto del rinnovo del superammortamento e della sabatini, sono ottime. Dovremmo chiudere quest'anno con oltre 15.000 unità immatricolate e prevediamo anche il prossimo anno di una crescita costante. Questa puntata finisce qui, noi con hashtag autotrasporti ci risentiamo lunedì alle 13.45 come sempre in coda ad effetto giorno. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti.